Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Faria porse il foglio a Dantès, che lesse avidamente le seguenti parole, tracciate con inchiostro rosso, simile alla ruggine. Oggi 25 aprile 1498, essendo stato invitato a pranzo da Sua Santità Alessandro VI, e temendo che, non contento d'avermi fatto pagare il cappello cardinalizio, egli voglia anche ereditare da me e riservarmi la sorte dei cardinali Crapare e Bentivoglio, morti e avvelenati, io dichiaro a mio nipote Guido Spada, mio erede universale, che io ho nascosto in un luogo che egli conosce per averlo visitato con me, cioè nelle grotte della piccola isola di Montecristo, tutto quanto io possiedo in lingotti, in monete d'oro, in pietre preziose, diamanti e gioielli, che solo io conosco l'esistenza di questo tesoro, che ammonta a quasi 2 milioni di scudi romani, e che egli troverà dopo aver levato la 20ª roccia e a partire dal piccolo seno dell'est in linea retta. 2 aperture sono state praticate in queste grotte. Il tesoro sta nell'angolo più lontano della seconda, il qual tesoro lascio a lui come mio solo erede. 25 aprile 1498, Cesare Spada. Ebbene, capite finalmente, disse Faria. È la dichiarazione del cardinale Spada. È il testamento che fu cercato per tanto tempo, disse Edmond, ancora incredulo. Sì, mille volte, sì. Ora, continuò Faria guardando Dantès con un'espressione quasi paterna, ora, amico mio, voi ne sapete quanto me. Se noi ci salviamo insieme, la metà del mio tesoro è vostra. Se io muoio qui e voi vi salvate da solo, vi appartiene tutto. Ma, domandò Dantès esitando, questo tesoro non ha nel mondo dei proprietari più legittimi di noi? No, no, rassicuratevi. La famiglia è del tutto estinta. L'ultimo dei conti Spada, inoltre, mi ha designato suo erede e nel lasciarmi per legato questo simbolico breviario mi ha lasciato tutto ciò che conteneva. No, no, tranquillizzatevi. Se un giorno potremo mettere le mani su questa fortuna, potremo goderne senza rimorso. Questo tesoro vi appartiene, amico mio, disse Dantès. Appartiene a voi solo. E io non vi ho alcun diritto. Non sono neppure vostro parente. Voi siete mio figlio, Dantès, gridò il vecchio. Voi siete il figlio della mia prigionia. Il mio stato mi obbligò al celibato. Dio vi ha inviato a me per consolare l'uomo che non ha potuto diventare padre e il prigioniero che non poteva essere libero. E Faria tese il braccio ancora valido al giovane, che gli si gettò al collo piangendo. Una notte Edmond si svegliò di soprassalto, credendo di sentire qualcuno che lo chiamava. Aprì gli occhi e tentò di penetrare lo spessore dell'oscurità. Il suo nome, o piuttosto una voce lamentosa che tentava di articolare il suo nome, giunse fino a lui. Si alzò sul letto, con il sudore dell'angoscia sulla fronte, e ascoltò. Senza dubbio il lamento proveniva dalla cella del suo compagno. «Gran Dio!» mormorò Dantès. «Sarebbe forse...» Spostò il letto, sollevò la pietra, si lanciò nel cunicolo e giunse all'estremità opposta. La pietra era stata alzata. Alla luce incerta e vacillante della lampada di cui abbiamo parlato, Edmond vide il vecchio pallido e ancora in piedi, aggrappato alla sponda del letto. I suoi lineamenti erano stravolti da quegli orribili sintomi che già conosceva e che tanto lo avevano spaventato la prima volta. «Ebbene, amico mio», disse Faria rassegnato, «capite, vero? Non occorre che io vi spieghi altro». Edmond prese il vecchio tra le sue braccia e lo adagiò sul letto. «Ora, amico», disse Faria, «unica consolazione della mia misera vita, voi che il cielo mi ha donato un po' tardi, ma che alla fine mi ha donato. Dono inestimabile di cui lo ringrazio. Nel momento di separarmi per sempre da voi, vi auguro tutto il bene, tutta la felicità che meritate, figlio mio. Io vi benedico. Una violenta scossa interruppe il vecchio. Dantès alzò la testa e vide che i suoi occhi si iniettavano di rosso, come se un'onda di sangue fosse salita dal petto alla fronte. Addio, addio, mormorò il vecchio, stringendo convulsamente la mano al giovane. Addio. Steso sul letto nel senso della lunghezza e debolmente rischiarato da una luce nebbiosa che penetrava dalla finestra, si vedeva un sacco di tela grezza, sotto le cui larghe pieghe si distingueva confusamente una forma lunga e irrigidita. Era l'ultimo lenzuolo di Faria, quel lenzuolo che, a detta dei carcerieri, costava così poco. Così tutto era finito. Una separazione fisica esisteva già fra Dantès e il suo vecchio amico. Egli non poteva più vedere i suoi occhi, rimasti aperti come per guardare al di là della morte. Non poteva più stringere quella mano industriosa che aveva sollevato per lui il velo che copriva le cose nascoste. solo. Era ritornato solo. Era ricaduto nel silenzio. Si ritrovava di fronte al nulla. Solo. Non più la vista, non più la voce dell'unico essere umano che lo tenesse ancora legato alla terra. Non era meglio, come Faria, andare a chiedere a Dio l'enigma della vita, a rischio di passare per la lugubre porta dei patimenti? Morire! Oh no! Gridò. Non vale la pena di aver vissuto tanto, di aver tanto sofferto per morire così. Morire andava bene quando avevo preso la risoluzione l'altra volta, tanti anni fa. Ma ora sarebbe veramente troppo aiutare il mio infelice destino. No, no, io voglio vivere. Voglio lottare fino all'ultimo. No, io voglio riconquistare quella felicità che mi fu tolta. Volevo morire e dimenticavo che ho i miei carnefici da punire. E forse, chissà, anche qualche amico da ricompensare. Adesso invece sarò dimenticato qui e non uscirò dal carcere che nello stesso modo di Faria. Ma a queste parole Edmond rimase immobile, con gli occhi fissi, come colpito da un'idea repentina, ma spaventosa. A un tratto si alzò, portò la mano alla fronte come avesse le vertigini, fece due o tre giri nella cella e tornò a fermarsi davanti al letto. «Oh!» mormorò. «Chi mi ispira questa idea? Sei tu, mio Dio!» «Poiché solo i morti escono liberamente da qui, prendiamo il posto dei morti!» E senza aspettare di tornare sulla decisione, senza pensarci oltre per timore di distruggere quella risoluzione disperata, si chinò sopra il macabro sacco. Lo aprì con il coltello fatto da Faria, vi tolse il cadavere, lo trascinò nella propria cella, poi tornò in quella dell'abate, prese dal nascondiglio l'ago e il filo, si levò i suoi cenci affinché sotto la tela si sentisse la carne nuda, scivolò nel sacco, assunse la stessa posizione del cadavere e richiuse dall'interno il sacco con una cucitura. Si sarebbe potuto sentire il battito del suo cuore se per disgrazia in quel momento fosse entrato qualcuno. Le ore passarono senza alcun movimento nel castello. Finalmente la porta si aprì. Una luce velata arrivò fino agli occhi di Dantès. Attraverso la tela che lo copriva vide due ombre che si avvicinavano al letto. Una terza restava alla porta, tenendo in mano una lanterna. I due uomini che si erano accostati al letto afferrarono il sacco alle due estremità. Il finto morto fu posto sulla barella e il corteo, rischiarato dall'uomo che portava la lanterna e che lo precedeva, salì la scala. D'un tratto Dantès avvertì l'aria fresca e aperta della notte. Riconobbe il maestrale. Fu una sensazione immediata, piena a un tempo di delizia e di angoscia. I portatori fecero una ventina di passi, poi si fermarono e deposero al suolo la barella. Edmond sentì posare vicino a lui un corpo pesante e sonoro. Nel medesimo istante, una corda circondò i suoi piedi con una pressione viva e dolorosa. Sollevata la barella, i becchini ripresero il cammino. Fecero una cinquantina di passi circa, poi si fermarono. Dantès sentì che lo prendevano per la testa e per i piedi e che lo facevano dondolare. «Uno!» dissero i becchini. «Due! Tre!» E nello stesso tempo Dantès si sentì lanciato in un vuoto enorme, traversando lo spazio come un uccello ferito e cadendo sempre con uno spavento che gli agghiacciava il cuore. Benché tirato in basso da qualcosa di pesante che precipitava ancor più il suo rapido volo, gli sembrò che questa caduta durasse un secolo. Finalmente, con un tonfo spaventoso, entrò come un dardo in un'acqua gelida che gli fece emettere un grido soffocato nel medesimo istante dell'immersione. Dantès era stato lanciato in mare e veniva tirato a fondo da una palla di ferro attaccata ai piedi. Il mare è il cimitero del castello d'If. Dantes, stordito, quasi soffocato, ebbe tuttavia la presenza di spirito di trattenere il respiro e con la mano destra armata di coltello squarciò rapidamente il sacco. Da questo sporse il braccio, quindi la testa. Ma malgrado gli sforzi per sollevare la palla, continuò a sentirsi tirare verso il basso. Allora si curvò, cercò la corda che gli legava le gambe e con uno sforzo supremo la tranciò proprio nell'istante in cui stava per annegare. Allora, con un vigoroso colpo di piedi, risalì libero alla superficie del mare, mentre la palla trascinava nelle profondità sconosciute quella tela grezza che per poco non era divenuta il suo sudario. Dantes si prese solo il tempo di respirare e si immerse di nuovo, perché la prima precauzione che doveva prendere era quella di evitare le guardie. Quando ritornò alla superficie del mare, vide brillare come una stella il faro di Planier. Dirigendosi in linea retta verso quel faro, egli si lasciava l'isola di Tiboulin un poco a sinistra, e tenendosi quindi sulla sinistra, doveva dunque incontrarla, strada facendo. Passò un'ora, nella quale Dantes, esaltato dal sentimento di libertà che pervadeva tutta la sua persona, continuò a fendere i flutti nella direzione stabilita. Ad un tratto, gli sembrò che il cielo, già tetro, si oscurasse ancora di più, che una nube fitta, pesante, compatta, si abbassasse verso di lui nel medesimo istante che sentì un forte dolore al ginocchio. Allungò la mano e incontrò una resistenza. Aveva toccato terra. Vide allora che cos'era, l'oggetto che aveva preso per una nube. A 20 passi da lui si innalzava una massa di scogli dalle forme bizzarre, che si sarebbero presi per fiamme pietrificate nell'istante della loro più ardente combustione. Era l'isola di Tiboulin. Dantes si rialzò, fece qualche passo in avanti e si distese ringraziando Dio su quelle punte di granito che gli sembrarono più morbide del più soffice letto. Un'ora dopo si svegliò al rombo di un tuono. La tempesta si era scatenata nello spazio e batteva l'aria con il suo volo fragoroso. Una roccia sporgente offrì un momentaneo asilo a Dantes. Egli vi si rifugiò e quasi nel medesimo istante la tempesta scoppiò in tutto il suo furore. Aggrappato come una sfinge allo scoglio, da dove guardava l'abisso, un lampo gli mostrò un piccolo bastimento in pezzi e, fra i rottami, delle teste dai volti disperati, delle braccia tese verso il cielo. Poi tutto ritornò nella notte. Il terribile spettacolo era durato quanto un lampo. Poco per volta il vento si acquietò. Le onde si placarono. Una luce improvvisa corse sulle loro creste spumeggianti e le tramutò in criniere d'oro. Era il giorno. Dantes restò immobile e muto davanti a questo grande spettacolo, come se lo vedesse per la prima volta. Infatti, lo aveva dimenticato nel lungo tempo trascorso nel castello d'If. Si girò verso la fortezza interrogando con un lungo sguardo circolare la terra e il mare, e vide comparire sulla punta dell'isola di Pomegu, spiegando la sua vela latina verso l'orizzonte e simile a un gabbiano che vola rasente i flutti, un piccolo bastimento che solo l'occhio di un marinaio poteva riconoscere come una tartana genovese sulla linea ancora mezzo oscura del mare. «Oh!» esclamò Edmond. «E dire che in mezz'ora potrei raggiungere quell'imbarcazione, se non temessi di essere interrogato, riconosciuto per un fuggiasco e ricondotto a Marsiglia. Che fare? Cosa dire? Quale favola inventare per ingannarli? L'allarme non si è ancora diffuso. Forse non dubiteranno di niente. Posso farmi passare per uno dei marinai di quel piccolo bastimento che si è infranto la scorsa notte? Sì, questa favola non manca di verosimiglianza. E nessuno verrà a contraddirmi. Sono tutti annegati. Andiamo». Così dicendo, Dantes guardò nella direzione in cui era naufragata la piccola barca e rabbrividì. Sulla cresta di uno scoglio, poco distante dal suo, era rimasto attaccato il berretto frigio di uno dei marinai naufragati. In un attimo Dantes prese la sua decisione. Si rimise in mare, nuotò verso il berretto, se lo mise in testa, afferrò un pezzo di trave e si diresse per incrociare la rotta che percorreva la tartana. Quando riaprì gli occhi, Dantès si ritrovò sul ponte della tartana che continuava il suo cammino. Il suo primo sguardo fu per vedere quale direzione teneva. Continuava ad allontanarsi dal castello d'If. Dantès era talmente spossato che l'esclamazione di gioia che fece fu presa per un sospiro di dolore. «Chi siete?» domandò in cattivo francese il padrone. «Sono...» rispose Dantès in cattivo italiano. «Un marinaio maltese. Venivamo da Siracusa carichi di vino e di tele. La tempesta di questa notte ci ha sorpresi al capo Morgiù e siamo andati a infrangerci contro le rocce che vedete laggiù.» «Da dove venite?» «Da quelle rocce, dove ho avuto la fortuna di aggrapparmi, mentre il nostro povero capitano vi ha battuto la testa. Tre altri compagni sono annegati. Credo di essere il solo rimasto vivo. Ho avvistato il vostro veliero e, temendo di dover aspettare a lungo su quell'isola deserta, mi sono azzardato sopra un rottame della nostra barca per tentare di raggiungervi.» «Grazie», continuò Dantès. «Mi avete salvato la vita. Ero perduto quando uno dei vostri marinai mi ha afferrato per i capelli.» «Sono stato io», disse Jacopo, un marinaio dal viso franco e aperto, incorniciato da lunghi favoriti neri. «Ed era tempo, perché stavate colando a picco.» «Sì», disse Dantès tendendogli la mano. «Sì, amico mio, vi ringrazio una seconda volta.» «Ma ora che faremo di voi?» domandò il padrone. «Ahimè, ciò che vorrete. La feluca su cui navigavo è perduta. Il capitano è morto», rispose Dantès alzandosi. «Dove andate?» «A Livorno.» «Allora, invece di bordeggiare, cosa che vi fa perdere tempo prezioso, perché non serrate semplicemente il vento da vicino?» «Perché finiremo dritti sull'isola di Rion. Vi passerete a più di 20 braccia di distanza.» «Ah, e prendete dunque il timone», disse il padrone, «e noi giudicheremo della vostra abilità.» Il giovane si mise al timone, si assicurò con una leggera pressione che il bastimento fosse obbediente e, vedendo che senza avere una grande precisione non si rifiutava, gridò: «Alle braccia e alle boline!» I quattro marinai che formavano l'equipaggio corsero al loro posto mentre il padrone li guardava fare. «Tirate!» continuò Dantès. I marinai obbedirono con molta precisione. «E ora legate bene!» Quest'ordine fu eseguito come i primi due, e il piccolo bastimento, invece di continuare a bordeggiare, cominciò a dirigersi verso l'isola di Rion, presso la quale passò, come aveva predetto Dantès, lasciandola una ventina di braccia a dritta. «Bravo!» disse il padrone. «Bravo, bravo!» ripeterono i marinai, e tutti guardarono meravigliati quell'uomo il cui sguardo aveva ripreso intelligenza e il corpo un vigore che erano ben lontani dal supporre in lui. «Vedete», disse Dantès lasciando il timone, «che potrò esservi di qualche utilità, almeno durante la traversata. Se a Livorno non mi vorrete più, ebbene, mi lascerete là, e con i primi mesi di paga vi rimborserò il cibo e gli abiti che vorrete prestarmi.» sta bene», disse il padrone. «Possiamo accordarci se siete ragionevole.» Con il pretesto di essere stanco, Dantès chiese allora di sedersi al timone. Il timoniere, ben contento di essere sollevato dalle sue funzioni, consultò con l'occhio il padrone, che gli fece segno con la testa che poteva affidare al suo nuovo compagno la barra. Dantès poté restare con gli occhi fissi, rivolti verso Marsiglia. «Oggi che giorno è del mese?» domandò Dantès a Jacopo, che era venuto a sedersi vicino a lui dopo aver perso di vista il castello d'If. «Il 28 febbraio», rispose questi. «Sì, ma di quale anno?» domandò ancora Dantès. «Come di quale anno? Volete sapere di quale anno?» «Sì», rispose il giovane. «Vi domando di quale anno. Avete dimenticato in che anno siamo?» Che volete? È stata così grande la paura di questa notte, disse ridendo Dantes, in cui poco è mancato che non perdessi la vita, che la mia memoria ne è rimasta sconvolta. Quindi vi domando, siamo al 28 febbraio di quale anno? Dell'anno 1829, rispose Jacopo. Erano trascorsi 14 anni dal giorno in cui Dantes venne arrestato. Era entrato nel castello di Ifa a 19 anni e ne usciva a 33. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it